Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. È domenica e come ogni domenica, pochi minuti dopo le 11, ecco qua i Padri Eterni. Un saluto da Federico Taddia e Matteo Bussola. Come stai, Matteo? Fede, allora. È stata una settimana complicata, via. Sì, insomma, questo è l'inizio dell'anno scolastico. Lo sappiamo, dai, tutti abbiamo, insomma, quasi in tutta Italia le scuole hanno riaperto ed è stata una settimana di preparazione di zaini, di pulmini, di misurazioni della febbre, come abbiamo detto, insomma, i primi compiti, ma rendiamoci conto, dopo quasi 8 mesi praticamente ci eravamo dimenticati, scoprire alle 7 di mattina che i colori a cera che hai acquistato per le figlie in realtà sono pastelli ad olio. Succede. Sai, quelle cose che ti fanno sentire benissimo. Succede. Io anche, insomma, il mio adolescente ha iniziato il suo anno scolastico, è arrivato in classe il primo giorno di scuola e mi ha mandato la foto della classe, la prima foto di classe, e non c'erano i banchi. Succede anche questo. Succede, il suo esordio è stato: non c'erano i banchi, lì già tutti la chat dei genitori, insomma, nel subbuglio, puoi immaginare. E lì ho proprio pensato: cosa faccio? Faccio il padre, faccio il giornalista, sono anche rappresentante di classe, quindi chiamo la preside e iniziamo subito la polemica, la raccolta delle firme, la protesta. E invece ho scelto di fare il bravo, e, insomma, ho chiesto a lui di capire appunto perché la situazione era così. Hanno dato delle risposte, insomma, più o meno credibili, però ho capito che c'era del panico nella scuola, insomma, l'organizzazione era complessa, e ho detto proviamo a dare tempo, almeno altre 24 ore. E non è successo niente nelle 24 ore successive, però il terzo giorno sono arrivati i banchi, insomma, credo che sia stato un approccio che un po' di genitori dovrebbero avere, nel senso che dobbiamo un attimo fidarci, che non è facile, sono il primo a dirlo, perché insomma il nervoso era tanto, lo sconforto, la paura. Però davvero, se anche noi genitori in questo momento andiamo a buttare benzina sul fuoco, aiuto. Poi non vuol dire che dobbiamo fregarcene, né stare a guardare, no, basta. Ma diciamo, come dire, criticare con spirito costruttivo, no, sì, e cercare di collaborare anziché mettersi di traverso. No, è proprio questo, è capire quando possiamo davvero essere costruttivi, quando possiamo essere utili, quando il nostro occhio vigile può poi muovere le cose, altrimenti diventa veramente dura per tutti. Comunque siamo qua anche oggi, un sacco di storie, un sacco di ospiti. Radio24.it è il nostro sito, da lì potrete poi scaricare il podcast. Giocheremo anche oggi, andremo in viaggio con il nostro treno, dove vi stiamo dando indicazioni sul come toccare tante mete per ripassare proprio ciò che si studia a scuola. E poi, come sempre, i vostri messaggi: padreterni@radio24.it se volete farvi vivi, oppure attraverso la nostra pagina ufficiale di Facebook, i Padri Eterni di Radio 24. This is the clock upon the wall. This is the story of us all. This is the first sound of a newborn child before he starts to crawl. This is the war that's never won. This is a soldier and his gun. This is the mother waiting by the phone, praying for her son. Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see. Pictures of you, pictures of me, remind us all of what we used to be. Poi, Matteo, sai qual è la verità? Che ti puoi arrabbiare, ti puoi incavolare, puoi scegliere di voler cambiare il mondo, di protestare. Poi leggi storie come questa che andremo a raccontare fra un attimo e fai pace veramente col mondo, no? Sono boccate d'ossigeno per noi padri. Siamo a Siniscola in Sardegna, lui si chiama Marco Dalu, è un papà, e ha un figlio di quasi 4 anni che si chiama Giovanni Maria, che ha una malattia rara, una malattia che adesso ci spiegherà meglio lui, che comunque gli fa comparire degli ematomi, dei lividi su tutto il corpo. E Marco ha deciso di dare una risposta a suo modo, appunto agli occhi a volte increduli, a volte tristi, a volte arrabbiati del figlio. Ciao Marco, buona domenica, benvenuto ai Padri Eterni. Buongiorno a tutti e buona domenica a voi. Allora, intanto spiegaci questa malattia, che cos'è? Allora, questa malattia si chiama tromboastenia di Glassman. Da alcune ricerche che io ho fatto via soprattutto Google, ha un'incidenza su una persona su un milione. Quindi stiamo parlando di forse 7.000 persone nel mondo che hanno questa patologia. Si hanno il numero corretto di piastrine, quindi proprio a livello numerico è perfetta la conta, ma fondamentalmente non funzionano, non aggregano a niente. Ok, e quindi appunto uno degli effetti è proprio questo, no? Che ci sono dei lividi che su tutto il corpo. Diciamo che la parte più evidente di questa malattia sono quello che noi riusciamo a vedere, quindi i lividi sul corpo, lividi che non sono altro che emorragia, certo, che l'organismo non riesce a tamponare. Certo. E quella è la parte forse meno preoccupante, perché queste emorragie potrebbero essere o comunque venirsi a formare internamente. Ne è un esempio mio figlio, che ha avuto la cosa peggiore che questa patologia poteva dare, che era l'emorragia cerebrale alla nascita. Certo. Marco, però appunto questi lividi, che sono la parte più evidente, anche se la meno preoccupante, è quella che magari per un bambino, no? Perché è lo sguardo degli altri che si pone sul tuo corpo, le domande, appunto gli altri bambini che guardano incuriositi. Cosa hai fatto tu? Qual è stata la tua decisione per dare un abbraccio particolare a tuo figlio, di fatto? Io non ho fatto granché, mi sono solo tatuato i suoi lividi nelle gambe, per non farlo sentire solo, per capire che anche il padre era così, che non si vergognava di quello che aveva e viveva felice, senza doversi nascondere niente a nessuno. Marco, guarda, la tua è una di quelle storie che davvero, come dire, tocca in profondità, nel senso che guarda, tu hai detto che non ti senti un padre eroe rispetto agli altri, no? Che si spaccano la schiena, che vanno a lavorare. Ecco, consentimi, no. Cioè, nel senso che per carità, grande rispetto per tutti i padri e per le piccole grandi battaglie di ciascuno, ma tu ti sei tatuato sulla pelle una cosa che resterà per tutta la vita solo per far sentire meglio tuo figlio. Cioè, sono proprio due campionati differenti, insomma. Che cosa ti ha detto in particolare Giovanni Maria quando sei arrivato a casa con i lividi tuoi tatuati sul corpo? Permettimi di dirti una cosa che risponda alla tua domanda. Io non... scusami, ma non mi trovi d'accordo. Io vedo situazioni, frequentando comunque sia un ospedale che cioè curano i leucemici, curano situazioni molto più importanti di quella di Joe, dove veramente vedi i bambini che sono appesi a un filo, i genitori con la testa alta, la schiena dritta, che sorridono, cercano di coinvolgerli, e Dio solo sa quello che invece dentro di loro hanno. Se vogliamo andare a cercare degli eroi, possono essere quelli. Eroe chi dà un pezzo del suo corpo per aiutare il figlio. Io non ho fatto altro che farmi due pasticci per mio figlio. Non sono né un eroe e non sono neanche né un padre speciale. Io sono un padre come gli altri. Io non ne conosco padri o comunque genitori che aprono gli occhi la mattina e affrontano la vita in tutto quello che fanno per far sì che i loro figli siano felici o per rendergli un futuro migliore. Non sono più di questo. A me è capitata questa battaglia e ho deciso di affrontarla in questa maniera, ma credimi che ci sono persone che ne hanno anche più difficili e magari stanno in silenzio e l'affrontano in silenzio. Io sto cercando di avere visibilità per mio figlio in modo che qualcuno più di dovere cominci magari una ricerca seria. Certo. su questa sua patologia. Marco, grazie davvero per la tua testimonianza, grazie per le tue parole. Salutaci Giovanni Maria, in bocca al lupo. Grazie tantissime a voi dell'onore che avete dato a mio figlio. Vi posso garantire che quando sarà grande non verrà dimenticato il vostro gesto. Grazie mille. Ciao Marco, buon abbraccio Marco. Ciao. Noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Padri Eterni. Show me the best you got and I'll show you one better. Show me your reddest rose and I'll show you one redder. Tell me a dirty joke and I'll laugh it off lightly. If I tell you a dirty joke, you might not like me. Everyone gets to make one big mistake. And if you're waiting on me, well, I guess you're gonna have. Matteo, il prossimo argomento è uno di quegli argomenti che insomma noi padri abbiamo sempre un po', credo, un po' di paura a gestire. Noi che alziamo l'asticella, noi che chiediamo, noi che pretendiamo, noi che facciamo un sacco di errori, ma poi siamo incapaci di insegnare a sbagliare. Certo, ma guarda, è una disciplina che i padri praticano con spaventosa regolarità, questo va detto. E l'educare allo sbaglio, perché educare allo sbaglio vuol dire poi paradossalmente prendere sicurezza, no? Mettersi in gioco, non aver paura di osare, è il cuore di una nuova collana di libri edita da Fabbri Editori. L'autrice è un'amica dei Padri Eterni, è psicoterapeuta, lavora da sempre con la famiglia e le scuole, è presidente dell'associazione Alice Onlus. Diamo il benvenuto a Stefania Andreoli. Ciao Stefania, buona domenica. Buongiorno ragazzi, grazie dell'invito. Ciao Stefania. Allora, ciao Matteo. Perché educare a sbagliare? Nel senso che noi genitori, noi padri, dovremmo essere quelli capaci di indicare la retta via, e invece tu con questi libri, insomma, spieghi alle bambine e ai bambini che sbagliare è bello e giusto, e credo che appunto questo insegnamento debba poi arrivare anche a noi genitori. Sai Fede, a me piace sempre sparigliare un po' le carte, ci conosciamo, credo che in questo caso potrebbe essere un invito che non ci si aspetta, ma la direzione è davvero quella di una pedagogia dell'errore che trovo fondamentale, soprattutto nelle nostre famiglie contemporanee e per i nostri bambini di oggi, perché vedi, come dici tu, non entra in contraddizione in realtà con l'insegnamento della retta via, sulla quale poi dovremmo intenderci che cosa voglia dire, ma facciamo che due o tre robe di base dovrebbero essere condivise da tutti. Il punto però è lo stile con cui tu percorri quella retta via, perché a volte perdiamo di vista che non significhi farla sempre giusta e andare sempre a segno, ma significhi piuttosto percorrerla tutta fino alla fine, che significa compiere l'intero cammino della propria esistenza, ma non solo concedendosi la caduta, lo scivolone o potersi sbucciare metaforicamente il ginocchio la volta che inciampi, ma davvero sapendo che quelle volte che ti ritrovi con la faccia per terra vanno bene e sono dei momenti e dei picchi di crescita strabilianti e straordinari. L'invito per i genitori a questo qui. Ma infatti Stefania, intanto io adoro una tua definizione, no? Quando dici che gli sbagli possono renderci felici. Credo che questo sia proprio il cuore del problema, no? Ma io riflettevo sul fatto, è anche una riflessione un po' banale se vuoi, no? Errore deriva da errare, da vagare, la ricerca di una direzione alla fine, no? E forse, come diceva quell'antico adagio, per riuscire a ritrovarti nella vita alle volte prima devi imparare a perderti. Come possiamo fare, lo dicevi tu prima, no? Noi genitori, noi padri, a insegnare ai nostri figli che la crisi, che quella sensazione di sentirsi a volte smarriti, è una cosa buona, indispensabile, sana? Guarda Matteo, mi dispiace che siamo al telefono e tu non possa vedermi perché ti sto facendo uno di quei sorrisoni che basterebbe anche per gli ascoltatori come risposta. Allora senti, che bella questa versione etimologica, mi viene in mente di rimpallartela anche sulla crisi. La crisi è proprio il punto di rottura, no? Spaventa soprattutto al giorno d'oggi che siamo iperperformanti, ma è esattamente in quei passaggi, quando sei smarrito e non conosci più la direzione, che poi ti assumi delle scelte, che poi fai dei tentativi, che poi magari anche tramite gli errori trovi un colpo di coda finale che ti risolve la situazione, perché è davvero una questione di stile molto più che di risultato, e secondo me questo stiamo mancando di dirlo ai nostri figli. Perché che cosa facciamo? Io sento tantissimi genitori che mi dicono questa roba qui, tra le righe, sotto pelle, trasmettono quest'idea di avere delle aspettative sui loro figli, che intendiamoci va bene, no? Perché quando hai delle aspettative su qualcuno vuol dire che ci tieni a lui e ti fa la differenza, però è molto sottile il confine oltre il quale quella roba lì diventa uno zaino troppo pesante sulle spalle dei nostri figli da portare, a cui a quel punto anche da bambini, anche da piccoli, e per favore non sottovalutiamolo, viene paura di deluderci, di non essere all'altezza dell'amore dei genitori, che è una roba gravissima, perché noi non ce lo dobbiamo da bambini guadagnare quel favore lì, noi dobbiamo essere giusti e nel giusto per il solo fatto che siamo venuti al mondo, e badate che questo non cresce degli arrogantelli, non preoccupatevi che quello lì è un altro film. Come fare? Allora, intanto secondo me due cose, dovremmo dircene 20, ma so che il tempo è tiranno. La prima, non nascondiamoci dietro un filo d'erba, cioè se sappiamo come mamme, come papà, che certe cose per noi sono importanti e che le sottolineiamo e che insistiamo, dichiariamolo, non facciamo finta che ci vada tutto bene, no beh decidi tu, no beh ma come fai, è ok, ah hai preso solo 8, beh va bene lo stesso, piuttosto diciamolo, cioè diamo ai nostri figli l'occasione magari poi di darci la battuta di ritorno, quindi che sia dichiarato ed esplicitato. E poi che siamo noi per primi testimoni dell'errore. Nessuno è perfetto, sembra una frase fatta, ma secondo me è bene che la rispolveriamo. Che possiamo noi per primi, anche da adulti, far vedere che si sbaglia, si è incerti, a volte si hanno delle ansie, e se possono concederselo gli adulti, vuoi che non se lo possano permettere i piccoli? Certo. Terrei a mente questo paio di cose. Creatività, fiducia, pregiudizi, tre dei temi trattati nei tuoi libri, poi c'è il temone, l'ansia, temone soprattutto dedicato al periodo che stiamo vivendo, no? L'ansia dei genitori, l'ansia dei ragazzi, aggiungere l'ansia dei professori, no? Insomma, la scuola che in questo momento è una vera palestra di ansia. Dacci un ultimo consiglio, Stefania, a noi padre soprattutto, cioè, qual è quell'arma per cercare di, non so, può essere l'ironia, per portare un po' di leggerezza, che non vuol dire, no, banalizzare un problema, ma vuol dire dare qualche scudo per un po' per proteggersi, per non farci inondare da questa ansia che poi non ci fa vedere le cose, ci rende cupi, non ci fa ragionare. Allora guarda, l'ansia te la firmo proprio su un certificato con carta intestata dalla dottoressa Andreoli, assolutamente sì. A me piace sempre molto pensare alle nostre vite come a una commedia, no? Sai, un po' all'americana, dove c'è il pubblico che fa le risate e chiamano gli applausi e risponde con il sottofondo onomatopeico che sottolinea che in quel momento è successa una cosa che può concederci un sorriso. Cioè, da genitori stiamo attenti a raccontare ai nostri figli storie di commedia, non storie di tragedia, in modo che imparino anche a distinguere che cosa sia davvero importante e meriti attenzione e ansia nel caso e che cosa no. Perché ti faccio questa premessa? Perché sicuramente tutti gli ospedali pediatrici hanno fatto delle ricerche in questo periodo, i numeri ci confermano che i livelli di ansia sono molto cresciuti nella popolazione generale e di conseguenza anche sui piccoli in età evolutiva, ma questo ci richiama a un monito, lo vedo anche attraverso la mia esperienza clinica. I bambini a cui ci rivolgiamo in questo caso, quindi parliamo dei bambini della scuola primaria che sono ancora piccoli, sono davvero ancora molto spugnosi e assorbono gli stati d'animo dei genitori. Quindi quindi noi da adulti abbiamo una responsabilità in questo senso rispetto a che parole scegliamo per dire le cose, che tipo di storytelling portiamo in famiglia e come mostriamo le nostre emozioni. Se noi per primi facciamo pace con quella roba lì, è molto probabile che in realtà abbiamo dall'altra parte dei bambini abbastanza tranquilli, sufficientemente tranquilli per seguire le regole ma per non aver paura ad andare a scuola. E questo declinato sui padri diventa estremamente interessante, perché voi oggi, la vostra generazione è una generazione strabiliante di padri che vanno a braccetto con le loro emozioni, con la loro pancia, non è più solo la pancia delle mamme quella che risuona, l'indicazione di continuare così, cioè che anche voi come portatori di virilità e di mascolinità possiate testimoniare a figli maschi e femmine che come ci si sente non è qualcosa da nascondere o da non mostrare per fare i forti a tutti i costi, perché guardate che l'ansia è così che arriva, cioè l'ansia arriva quando tu fai finta che vada tutto bene e invece bene non va per nulla, dentro ti si crea un gomitolo che se fa fatica poi a srotolare di cose che ti fanno sentire a disagio, ma se tu a poco le metti fuori dove c'è molto più spazio che non dentro di te, si ossigenano, vanno nell'aria, respirano e poi si sparpagliano. Emma e Dario incontrano l'ansia, scoprono la creatività, trovano fiducia in se stessi, affrontano i pregiudizi. Questo è l'imparare a sbagliare con Stefania Andreoli, Fabbri editore. Grazie davvero Stefania, ciao e buona domenica. A voi, buona ciao, domenica. Ciao. Ciao Stefania. Adesso ci fermiamo, il meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. If you leap awake in the mirror of a bad dream, and for a fraction of a second you can't remember where you are, just open your window and follow your memory upstream to the meadow in the mountain where we counted every falling star. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni di Radio 24. E la prossima storia, beh, la storia di un genio italiano, di una delle eccellenze. Di un gigante, di un gigante, dire. Sì. E ci piace, lo sapete, insomma, che ci seguite settimanalmente, no? Che ci piace raccontare la storia di queste persone e farlo da un punto di vista particolare, che è anche lo sguardo dei figli. E a volte ci sono occasioni privilegiate, come in questo caso. L'occasione privilegiata è stata la mostra del cinema di Venezia, dove è stato presentato il nuovo documentario del regista Luca Guadagnino, a proposito di geni, e il suo lavoro appunto è interamente dedicato a Salvatore Ferragamo, e ne parliamo con la figlia di Salvatore Ferragamo, Giovanna Gentile Ferragamo. Buongiorno Giovanna, buona domenica. Buongiorno, buona domenica anche a voi. Allora, da figlia, ha visto questo documentario e qual è stata la prima reazione? Una grandissima emozione, perché nonostante la vita di mio padre l'abbiamo vissuta sia nei suoi ricordi e racconti per i tempi in cui ancora non c'eravamo, che poi nel durante della sua vita. Quindi la conoscevo benissimo, però vederla proiettata così e così ben documentata, Luca Guadagnino ha fatto un lavoro magnifico, e si è potuto anche affidare ai nostri archivi, che per fortuna sono molto molto ampi e completi, e vederla tutta insieme così, soprattutto in una cornice come quella del Festival di Venezia, in questa sala magnifica, eccetera, mi è sembrata come riviverla per la prima volta, quindi estremamente emozionante. Giovanna, leggevo questa dichiarazione di Guadagnino, no? Quando ha detto che di lui mi ha fin da subito interessato la capacità di rischio. Ferragamo ha trionfato, fallito e poi ha trionfato di nuovo senza sentirsi mai vittima o vincitore, ma soprattutto di lui mi ha colpito la sua modestia, la sua delicatezza e il suo spirito. Era così anche come padre, Salvatore. Sì, infatti Luca Guadagnino lo ha dipinto benissimo, perché lo ha capito profondamente, e questo fatto anche della sua determinazione sempre a ricominciare, a non farsi abbattere dai momenti più difficili che gli sono capitati, che sono anche stati molto pesanti, è un qualcosa che, di cui parlava molto spesso anche a noi, allora bambini o adolescenti, raccomandandoci sempre di non abbandonare mai un progetto prima di averlo portato a termine. E diceva anche che questa sua grande forza nel ricominciare sempre nel suo lavoro e così gli era data dalla certezza di avere dentro di sé questa vocazione di fare le scarpe. Lui diceva: a me quello nessuno me lo può levare, la mia testa, la mia creatività e le mie mani mi porteranno avanti comunque. Ma e anche come padre, appunto, era un padre creativo, era un padre che giocava, era un padre che vi guardava i piedi, ecco. Assolutamente, era un padre dolce e severo allo stesso tempo. Devo dire un esempio di genitore al quale sarebbe bene riferirsi, e la sua rigidità su quello che riguardava i nostri piedi era per noi bambine, soprattutto Fiamma ed io, che eravamo le due figlie femmine, le maggiori, era un incubo, perché spesso, tornando a casa la sera o così, a sorpresa ci faceva levare le scarpe che avevamo ai piedi per controllare che i nostri piedi non fossero arrossati, non fossero sciupati dalle scarpe. Come sempre e come tutti, a volte si tende, soprattutto noi donne, a sacrificare un po' il nostro piede per l'aspetto invece che può avere con la scarpa, eccetera. Poi avevamo i piedi in crescita anche, e quindi era molto attento, perché continuava a dirci che siamo nati con i piedi perfetti e se qualcosa non va vuol dire che li abbiamo sciupati noi stessi. Che bella maniera di prendersi cura, veramente, un'immagine bellissima. Giovanna, che cosa significa oggi portare il nome Ferragamo? Cioè è più una responsabilità, più un'opportunità o entrambe le cose? Allora, entrambe le cose. E le dirò che quando io ho iniziato a lavorare, io ho iniziato avviando un settore che prima non esisteva, spinta da mio padre, che è quello dell'abbigliamento da donna, lui mi ha lasciato carta bianca su quello che volevo fare, eccetera, anche se ogni tanto naturalmente mi dava uno sguardo, mi rimetteva in riga, eccetera. Però poi in tutto il mio percorso io ho avuto sempre questa doppia realtà davanti. Da un lato, col nome che rappresentavo mi si aprivano tutte le porte, e dall'altro invece avevo questa grossa responsabilità di essere all'altezza di quello che già era mio padre, che era già molto famoso, molto riconosciuto per tutto il suo lavoro. Quindi è stato l'uno e l'altro insieme, e infatti io devo dire che quando mi chiedono a cosa mi sono ispirato, come ho fatto a svolgere il mio lavoro nel settore dell'abbigliamento, dico sempre che in fondo la mia missione è stata quella di vestire le scarpe. Che bello, insomma, è proprio un abbraccio, credo, no? È un abbraccio complementare, appunto, anche. Assolutamente, contrario di quello che avviene esatto. In altre case di moda, dove si cercano gli accessori a completamento dell'abito. Io invece dovevo partire già da una base molto consolidata, da una clientela anche già molto affezionata, abituata a quel tipo, a quella tipologia di moda, eccetera, per cui nonostante fossi giovanissima, io parlo di quando avevo 17, 18, 18 19 anni, non potevo andare a svolazzare con la mia fantasia, magari mi avrebbe portato a fare cose anche un po' più moderne o più spinte, però dovevo sempre riportarmi a quello che era il completamento dell'opera di mio padre, che continuava anche dopo certo. la sua morte. Certo. Grazie davvero a Giovanna Gentile Ferragamo per essere stata con noi oggi qui ai Padri Grazie Eterni. A lei. Buona domenica. Grazie. Salve. Grazie anche a voi. Con fermo perché ho qualcosa in mente. Sono come sono, sono cosa sono, sono come. Matteo, insomma, tante volte parliamo, no, dell'essere padri imperfetti, padri incasinati, no? Dell'essere multipadri. Sì, esatto. Poi però veniamo a conoscenza di storie e ci sentiamo appunto nella ordinarietà. E questa è una storia bellissima, la storia di una famiglia, di un marito, una moglie, quattro figli, una storia che hanno raccontato in un libro intitolato Ci vediamo a casa, pubblicato qualche anno fa da Sperling & Kupfer. E adesso c'è un nuovo libro perché la famiglia nel frattempo è aumentata. È arrivato un nuovo figlio, quindi si è in cinque adesso in casa, si chiama Giorgio Maria, è un bellissimo bambino con la sindrome di Down e ha dato l'ispirazione appunto a un nuovo libro che si intitola Adesso viene il bello, scritto da mamma e papà. Lui è Gigi De Paolo, lei Anna Chiara Gambini. Ciao Gigi, buona domenica. Buona domenica a tutti. Allora, Gigi De Paolo, che è anche presidente nazionale del forum delle associazioni familiari, quindi uno che le famiglie le conosce, le studia, le analizza ed è un riferimento anche per tantissime famiglie. Gigi, cos'è questo bello che è arrivato ora nella vostra famiglia? Diciamo che il bello è il cercare di vedere in ogni situazione della vita che si presenta in famiglia quel lato positivo che c'è sempre. Perché è vero che le famiglie sono distrutte, sono stanche, arrivano alla fine della giornata con la lingua di fuori, però c'è sempre una bellezza che è quella che poi ci dà un po' la forza. Nel nostro caso l'arrivo di Giorgio Maria inaspettatamente, nonostante la sindrome di Down, è stato misteriosamente una bellezza che abbiamo sentito il desiderio di raccontare, perché ci ha migliorato, e ripeto, è un mistero perché comunque i problemi non mancano, ci ha migliorato la vita. Ma infatti, guarda Gigi, il vostro libro è bello proprio perché è la storia reale, concreta, quotidiana di una famiglia, e ci sono un sacco di passaggi in cui viene assolutamente naturale identificarsi a seconda della propria storia personale. Io per esempio, te lo devo dire, mi sono molto identificato con Anna Chiara, che lavora chiusa nel suo studiolo provando a resistere al caos imperante, insomma. Ma la cosa più interessante per me, devo dire, è stato ritrovare nel libro tante voci, cioè ci sono anche le voci dei vostri figli, Giovanni, Teresa, Maddalena, Gabriele e l'ultimo arrivato Giorgio, no? Come è nata questa, l'originalità di questa, di questo punto di vista? Diciamo che loro avevano fatto fino al libro precedente da spettatori, e questa volta un po' sentivamo che avevano il desiderio anche loro di dire qualcosa. Ci prendevano in giro quando facevamo le presentazioni in giro per l'Italia, allora ci abbiamo detto, vabbè, scrivetelo pure voi. Li abbiamo pagati anche, quindi abbiamo fatto questa operazione commerciale, nel senso coinvolgendo anche loro giustamente in questa operazione, ma la cosa bella è che sono emerse anche le loro voci, il loro punto di vista, perché poi alla fine una famiglia non è solo il punto di vista del marito e della moglie, ma ci sono anche figli che danno la loro chiave di lettura, soprattutto nel periodo difficile dell'adolescenza, no? Aprono spaccati che tante volte noi non vediamo. È un libro che prova a raccontare la storia di tutte le famiglie, a dire che siamo tutti sulla stessa barca, quindi non è cambiano i nomi, cambiano i luoghi, ma le famiglie sono tutte belle e tutte molto simili tra di loro nelle dinamiche. Gigi, lo dicevamo prima, adesso al di là del libro, no, nell'introduzione, che insomma le figure come la tua alzano un po' l'asticella dell'essere padre, no? Al di là della retorica, al di là delle frasi fatte, come ti guardano e cosa ti chiedono gli altri padri quando ti conoscono, quando conoscono la tua storia? Io dico con grande sincerità che questo libro, noi lo diciamo più e più volte, non siamo degli esempi, noi raccontiamo una storia, poi molti ci si ritrovano, molti prendono spunti, molti prendono anche spunti su come non comportarsi. Non ci ergiamo, né io né mia moglie, no, a modelli, perché non lo siamo e perché le storie sono tutte differenti tra di loro. Noi quello che cerchiamo di fare, io personalmente come padre cerco di dire che l'educazione è l'avventura più bella del mondo, che non dipende solo dai figli, ma dipende pure dal nostro desiderio di metterci in gioco, di studiare, di educare con i sì piuttosto che con i no, perché educare con i no è facile. No, lo sappiamo tutti, quello che non si deve fare. La cosa bella è cercare di allargare l'orizzonte e di dare un senso e di far capire a un figlio che la sua vita, diciamo, non è una fregatura, che non l'hai messa al mondo perché non c'avevi niente da fare o perché volevi passare 10 minuti piacevoli, ma perché c'è un desiderio, una bellezza che poi lui ti chiede e tu devi cercare di argomentargliela mostrandogli che vale la pena essere venuto al mondo e che non è una fregatura. Ma infatti guarda Gigi, una cosa bella che si porta via dal tuo libro è proprio questa capacità di affrontare le sfide, anzi non di affrontarle ma di accoglierle, no? Dicevi prima dell'arrivo di Giorgio Maria, cioè lo stupore che ha portato nella vostra vita, insieme naturalmente a una criticità che è quella della sindrome di Down, ma lo stupore ha vinto su tutto. Ecco, questa capacità di leggere le esperienze che ci accadono, no? E di volgerle, come dire, al positivo, trovo che sia una grande qualità. È il segreto che c'è nelle cose, poi alcune volte ti riesce, alcune volte non riesce a te ma riesce a tua moglie che ti aiuta a vederlo, alcune volte riesce ai figli. Non abbiamo voluto scrivere un libro perché ce ne sono tanti di una famiglia con un bambino con la sindrome di Down. La nostra è una storia di una famiglia dove c'è anche un bambino con la sindrome di Down, che non è il centro della famiglia ma è la ciliegina sulla torta. Ed è anche bello raccontarlo perché, diciamo, lo dico, i nostri figli sono migliorati da quando è arrivato lui, perché mentre prima è difficile scegliere qualsiasi cosa, con una fragilità in casa diventa tutto più semplice perché decide l'ultimo diventa il primo, quindi se devi scegliere di andare al mare sugli scogli e sulla sabbia, Giorgio ancora non cammina, andiamo sulla sabbia, non c'è stato più nessun litigio su questi argomenti. Adesso viene il bello Gigi De Palo, Anna Chiara Gambini. Ciao Gigi, grazie, buona domenica, un saluto a tutti i ragazzi. Grazie e ragazze. A voi, un abbraccio, ciao, grazie. Ciao. Ci fermiamo al traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni e si va in tre. Padri Eterni, ripasso in Italia. Ed eccoci saliti su Padri e Treni, il treno di Padri Eterni. Ogni settimana vi indichiamo un po' di mete che si possono raggiungere in treno e mete dove poter toccare con mano, no? Magari sperimentare cose che si sono studiate o lette a scuola durante una lezione. Beh, tantissime, per fortuna, tantissimi di questi contenuti poi insomma sono presenti in Italia, dentro a musei, a parchi, a città, e noi vi indichiamo un po' di queste mete, un po' di queste fermate da fare appunto padri e figli e genitori insieme. Diamo un po' il viaggio di oggi, dove ci porta? Beh, allora la prima fermata è a Parma, dove a Palazzo Tarasconi è stata inaugurata una grande mostra dedicata a Antonio Ligabue, intitolata appunto Ligabue, dare voce alla natura. Ligabue è infatti un pittore che con i suoi animali e i suoi sguardi sul mondo è amatissimo anche da bambini e bambini, quindi una bella lezione d'arte. La seconda fermata invece è a Isernia, al Museo Nazionale del Paleolitico, uno dei più importanti siti archeologici per comprendere, anche grazie a un bellissimo museo virtuale, la vita degli uomini preistorici. E la terza fermata è a Recanati, in provincia di Macerata, per andare alla scoperta del parco letterario interamente dedicato al poeta Giacomo Leopardi. Un itinerario verso l'infinito e oltre. Bella la citazione. e poi c'è la fermata che, come ogni domenica, facciamo anche noi. Oggi siamo fisicamente a Siracusa, all'interno del Tecnoparco Archimede, e con noi appunto c'è Cinzia Vittorio, direttrice del Tecnoparco Archimede di Siracusa. Ciao Cinzia, buona domenica. Ciao, buona domenica a te. Beh, allora, Archimede è uno di quei nomi che appunto a scuola ritorna spesso, no? E quindi sì, ci sembra un'ottima occasione quella del vostro Tecnoparco per conoscere un po' meglio lui e soprattutto le sue leggi, le sue scoperte. Cosa si può apprendere venendo da voi? Allora, il Tecnoparco appunto è un museo all'aperto dove abbiamo riprodotto le macchine di Archimede, che sono tutte quante a scala naturale. Quindi si possono proprio vedere con queste macchine realizzate con dei materiali appunto molto simili a quelli del passato, quindi di Archimede, ed è un viaggio quindi alla scoperta delle scienze del 300 avanti Cristo, quindi è il periodo di Archimede, quindi tutte le sue invenzioni. E infatti da noi si può vedere quello che è proprio pratico, i principi della fisica, quindi della meccanica, quello che riguarda la leva, ad esempio, quello che riguarda la geometria di Archimede, la meccanica in generale. Noi abbiamo anche una bella sezione che è dedicata alle macchine da guerra, dove azioniamo anche qualche macchina, quindi per esempio le catapulte, le balestre, le baliste, facciamo dei lanci in sicurezza proprio anche con i ragazzini che ci vengono a trovare. In quanto la nostra visita è sempre guidata, quindi c'è sempre una guida scientifica che accompagnerà il gruppo, la famiglia. Ovviamente il parco ha un taglio familiare, quindi una, appunto, papà, bimbi, l'età è quella fra i 4 che scegliamo fino ai 100 anni, assolutamente. Cinzia, quindi... mi sono un attimo preoccupato per la balestra o la catapulta, cioè, non fate volare i padri, ecco, non usate i padri. Delle palline, semplicemente delle piccole palle da basket. Ma quindi, Cinzia, tutte queste macchine si possono vedere e provare, no? Tra l'altro leggevo, sì, che queste sono state costruite su disegni e schemi realizzati da tuo padre, poi anche, no? Sì, quindi, sì, esattamente. Ecco. Sì, sì. Questo genere di esperienze, poi, no, serve anche, sì, perché proprio per ricollegarci con i nostri padri, come dire, culturali, con i nostri padri storici, perché poi Archimede, diciamolo, c'è stato anche un lungo periodo in cui è stato in parte forse dimenticato dalla sua città, Siracusa, un pochino, no? Sì, sì, sì, sì. Noi è stata questa la costruzione del Tecnoparco proprio un'idea di mio padre, anche un po' per celebrare il nostro celebre concittadino, proprio perché in città non si avevano alcun tipo di segnale proprio che riguardasse la memoria di Archimede, quindi lui proprio da privato, perché il nostro è un parco completamente privato, ha studiato le macchine di Archimede e le abbiamo realizzate insieme, e quindi io oggi tramando quello che è stato, appunto, un po' la cultura scientifica di mio padre, che era un professore di matematica e scienze. Infatti è proprio un parco didattico proprio dedicato agli studenti, che possono provare con mano quelli che sono i principi che leggono sui libri. Eh sì, infatti quello è fondamentale. Ma Cinzia, immagino che ti faranno anche un sacco di domande gli studenti, ti mettono in crisi anche ogni tanto, perché poi perché insomma sono anche, no, imprevedibili le loro domande. No, volevo capire invece, sì, quando vengono con i genitori, chi gioca di più? Cioè, si divertono di più i ragazzi o si divertono di più i loro padri? Allora, tutte e due. Devo dire che diventa quasi una unione familiare, perché i genitori restano ovviamente stupiti nel vedere queste macchine che non immaginavano, perlomeno pensavano, per esempio, che si ricordavano qualcosa, ad esempio, che riguardava le scuole, no? Che avevano già fatto, per esempio, la spinta di Archimede, improvvisamente la riscoprono in maniera pratica e quindi ne restano contenti. Mentre i bimbi restano stupiti, infatti noi vediamo proprio lo stupore nei visi dei ragazzi, cioè di qualunque età, proprio perché ancora è un argomento, ad esempio, degli argomenti che devono prendere, e quindi guardano con estremo interesse quelle che sono le dimostrazioni pratiche che noi, appunto, facciamo. Cinzia, grazie davvero. Ricordiamo, a Siracusa potete e dovete andarci nel treno, che è una soluzione ecologica e comoda. Tecnoparco@archimede.com per tutte le informazioni. Ciao Cinzia, buona domenica. Grazie a te, buona domenica. Grazie. E finisce qui il nostro viaggio domenicale. Un grazie a Roberta Frisani alla parte tecnica, Danilo Di Trani, che con noi ha scritto la puntata. Il grazie più grande, come sempre, va a voi per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it, il nostro sito, da lì potrete scaricare e riascoltare il podcast. Ciao Matteo, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana a te e buoni compiti. E l'appuntamento, come sempre, a domenica prossima. Ciao! Ciao! Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.